Cari amiche e cari amichesse, ben trovate a Folk Oddio, una rubrica estemporanea gentilmente offerta dalle canzoniere. La musica che sentite è il mattacino, eseguito qui per noi dalla nuova compagnia di canto popolare e in questo caso una simpatica danzetta per scongiurare le pestilenze. Niente di più appropriato per Radio Virus, E qui su Radio Virus, in tempo di pandemia, le canzoniere vi propongono un po' di musichine che hanno accompagnato la storia del movimento. Chi vi parla è la Carlessa, dal tavolo queer di Macao, adesso piuttosto dal tavolo di casa sua, potremmo dire, da qualche parte a Milano, nonostante sta accentino. Comunque, oggi, 18 aprile, oltre a farvi ascoltare tre pezzi, cercherò anche di dirvi come suonare alcune di queste musiche, quindi tirate subito fuori le chitarrine, i pifferi e i mandolini. Se volete informazioni, testi, se avete proposte, cose che vogliamo studiare e cantare insieme, contattateci scrivendo all'indirizzo folk.oddio@canaglie.org. Il primo pezzo che sentiamo sono ottave stornelli raccolti da Graziella Di Prospero, che li pubblicò in un disco del 1978, In mezzo al petto mio c'è stan serpente. Graziella Di Prospero è stata una musicista ricercatrice fondamentale per la riscoperta del repertorio del Basso Lazio e raccolse nella seconda metà degli anni 70 canti della zona tra Roma e i Monti Lepini. Lei era nata a Sezze, in provincia di Latina. I dischi di Graziella Di Prospero purtroppo sono introvabili adesso, quindi, care amiche e care amichesse di Folk Oddio, ve la sorbirete mal registrata e peggio cantata proprio da moi-même che vi sto parlando, e quindi niente, forse è meglio se la imparate anche voi, che magari fate più giustizia di me al lavoro di Graziella Di Prospero. E il motivo per cui ci tengo a farvi sentire questo primo pezzo è che in realtà parla proprio di una cosa che ricorre oggi, il 18 aprile, perché il 18 e il 19 aprile del 1948 si tennero le prime elezioni dell'Italia repubblicana, che sono proprio quelle che hanno decretato i 40 anni di Democrazia Cristiana in questo paese e che lasciarono delusa tutta la base comunista della Resistenza, che invece si aspettava una presa di potere dei comunisti, una cosa che fu scongiurata proprio da una di quelle congiunture storiche che videro d'accordo Stati Uniti e Russia, colloqui tra Togliatti e Stalin, documenti segreti della CIA e via dicendo. E nel frattempo la base comunista delusa se la cantava, e se la cantava sulle melodie tradizionali di stornelli ed ottave su cui sono stati impiantati dei testi politici. E i testi che sentiamo adesso vanno proprio dalla fine della Prima Guerra Mondiale alle elezioni del 1948 e hanno come protagonisti Vittorio Emanuele III, il porco dittatore a cui quel re diede il comando, Umberto II, che invece poi scappò in Portogallo dopo un mese solo di regno, una decina di giorni dopo il referendum del 2 giugno del 1946 che decretò la Repubblica, e naturalmente il governaccio. Se cercate il testo o se volete qualsiasi altro tipo di informazione o volete farci qualche proposta, vi ricordo che l'indirizzo è folk.oddio@canaglie.org e niente. E adesso andiamo a incominciare. Lottete, combattete, vi attende vittoria. Figli d'Italia, per il re vincerete, quando tornate a casa coperti di gloria, onori in cambio la terra ne avrete. Più di 400.000 fanti crepati, e per la terra sul carso e sul grappa, quando tornarono a casa feriti, accecati, bastone, galera, esilio e scialappa. Vittorio, che fu il primo traditore, e che lo mal si fa a porta bandiera, dieder cumanno a un porco dittatore per fa la fana disastrosa guerra. Vittorio Emanuele, che cosa vuoi? Tutta la gioventù mori la fai, tutta la gioventù con te la vuoi, ma il diverrà che te ne pentirai, perché tu per strano caso non sei ancora persuaso che servo ognuno, la monarchia non la vo più nessuno, che servo ognuno, la monarchia non la vo più nessuno. Per ordine del duce, stasera senza luce, stanotte rioplani, inglesi e americani, e così sia, avemo perso Africa e Tunisia. Per l'insalata ci vale l'olio, per scappare ci vuole d'olio, per perdere i confini ci vanno Hitler e Mussolini. Vittorio Emanuele, falla finita, non vedi che l'Italia è rovinata, non vedi che l'Italia è disistrata, bandiera di Savoia è bifinita, e la casa di Savoia è la casa dell'imbroglia, è fatto strano vederlo scappare con Mazzomaro, è fatto strano vederlo scappare con Mazzomaro. Manco se questo fosse troppo poco, sono venuti i tedeschi puzzolenti per mettere lo stivale tra ferro e fuoco e massacrare i poveri innocenti. E i tedeschi e Mussolini sono stati una massa d'assassini. Povera Italia, con me ce l'ha ridotta sta canaglia. Povera Italia, con me ce l'ha ridotta sta canaglia. Umbertino credeva d'essere dritto, come Pilato se lavò le mani, ma il popolo italiano zitto zitto ci ha levato l'Italia tra le mani. Il 2 di giugno si è unito fitto fitto assieme a un po' di democristiani, l'ha tolto Re Umbertino a fallo il gallo, se va di a fa ammazzare il Portogallo. Il 18 di aprile gli italiani svoltarono in una cerima battaglia, più peggio che si fu se una mitraglia, ricominciarono tutti quanti mali, certi boia carcerati se sono troppo rifrancati, non ci sono santi, bisogna riacacciarli a tutti quanti, non ci sono santi, bisogna riacacciarli a tutti quanti. Mo governaccio, sei tutto uno sfacello, te dico male no, non ti ringrazio, c'è tratti a come carne da macello, tutto hai mangiato tutto e non sei sazio, ma è inutile ripetere ritornello, e oggi per campare è tutto uno strazio. Chi c'è comanda è una grossa balena che coi pesci più piccoli fa cena. Questi signori maggioranza, che tutto il mondo la fanno schifezza. Rinchiuderli vorrei dentro una stanza e fallire sta poi de cibo senza. Che se c'ha fame il proletario mangia bene il milionario. Con questa vita la fame dritta all'ossa si è carnita. Con questa vita la fame dritta all'ossa si è carnita. Ma noi che siamo della fila manca e troppa ce n'avemo de pazienza. Noi li volemo i condottieri onesti, perciò ci vanno i veri comunisti, che da sempre poveretti non c'hanno secondi piatti. Cari fratelli, basso lo scudo in alto li martelli. Cari fratelli, basso lo scudo in alto li martelli. Ed eccoci qui, ecco, perdonate quell'ultimo accordo un po' così a scureggetta, in 30 anni potevo anche imparare a fare un barré decente, ma vabbè, si fa quel che si può, e migliorerete voi, spero. Dunque, bentornate con le canzoniere, questa nostra rubrichetta che offriamo, folk, oddio, vi ricordo che ci potete scrivere a folk.oddio@canaglie.org. E dunque, restate sempre qua su Radio Virus, prendete in mano le vostre chitarrine, che adesso vi dico come si fa. Ed eccoci qui. Allora, il pezzo comincia con un'introduzione. Lottete, combattete, battente vittoria, questa cosa qua. Che poi è seguita da un'ottava intera. L'introduzione in realtà è una mezza ottava, e poi c'è l'ottava intera che è quella che comincia con Vittorio, che fu il primo traditore che la volse fa a volta bandiera. Sentite, qua c'è il cambio d'accordo, se siamo re minore, re minore, re minore, re minore, re minore, la maggiore. E le ottave non sono tradizionalmente accompagnate, non necessariamente, si cantano anche senza nessuna forma d'accompagnamento. E nella versione del canzoniere del Lazio, che vi farò sentire dopo, sono accompagnate. E qui io ci ho messo chitarra, non chitarra, un po' come capitava, diciamo. Ecco, qua si vede che non sono esattamente un musicologo. Comunque, io qui ho suonato tutto in re, quindi siamo in re minore. La maggiore e via dicendo. Dieter comanda un porco dittatore per fa la fana disastrosa. E qua si arriva agli stornelli, che invece sono in maggiore, per fa la fana disastrosa. Guerra. E questo è un re maggiore. Però qua si alterna tutto, re maggiore e la maggiore, tranne in chiusura, dove compare un sol maggiore. E quindi si fa re maggiore, sol maggiore, re maggiore, la maggiore, re. E quindi viene fuori una cosa del tipo, che ne so... Ma noi che siamo della fila manca e troppa ce ne avemo de pazienza. Noi li volemo i condottieri onesti, perciò ci vanno i veri comunisti. E qua si cambia e si va in chiusura. Che da sempre poveretti non c'hanno secondi piatti. Qua c'è, appunto, sono re, sol, re, la. E quindi la chiusura ci viene una cosa del tipo: che da sempre poveretti non c'hanno secondi piatti. Per essere più precisi, la chiusura comincia sul sol. Che da sempre poveretti non c'hanno secondi piatti. Quindi è, siamo in re. Re, re, sol, sol, sol, sol, re, re, re, la, la, la, la, re, re. e poi re là. Cari fratelli, qua siamo in là, basso lo scudo in alto di martelli. Re. Di nuovo là. La la la la la. Questa è la settima, in realtà la seconda volta, almeno mi piace farlo così, quindi la la la la la la la la la la la la la la la la. Re. Nel piccolo intermezzo che c'è, che è fatto su una melodia sua propria, che non è quella dell'ottava, abbiamo una progressione un po' così, un po' rock and roll di re, sol, la, re. Ed è il pezzo che fa. Per ordine del duce, stasera senza luce, stanotte rioplani, inglesi e americani. E così sia, avemo perso Africa e Tunisia. E quindi qua siamo re re re re re re re re sol sol la la sol sol re re re re re re re sol sol la la sol sol, scusatemi, sol sol la la re re, che ho detto prima, spero di avervi detto quello giusto. E poi so so so so so so so so so so la la la la la re re. E poi si resta su re, si resta su re per il bellissimo bellizza la ce vuole l'olio, per scappare ce vuole badoglio, per perdere i confini ce vanno Hitler e Mussolini. E basta ragazze, questo più o meno è tutto quello che c'è da sapere su come si eseguono questi stornelli del 1848, lottete combattete. Interessante che praticamente questi stornelli sono stati pubblicati da Graziella Di Prospero 30 anni dopo, il 1948, perché il disco In mezzo al petto mio c'è sta un serpente, ultimo disco pubblicato da Graziella Di Prospero, è del 1978. E quindi niente, colgo un po' l'occasione per farvi sentire cosa ascoltavamo qui invece 30 anni prima del 2020 in cui stiamo registrando. Vattene amore, che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato sei contento. Vattene amore, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di no, i treni e qualche ombra, pure il giornale. Ed eccoci qui, ah? Quante cose cambiano in 30 anni. Comunque, rispetto al 1978 invece, tornando agli anni 70, in cui c'era probabilmente un interesse molto maggiore anche a pubblicare su vinile i canti che venivano raccolti, e proprio 5 anni prima che Graziella Di Prospero pubblicasse Lottete combattete, lo stornello che vi ho fatto sentire prima io, il Canzoniere del Lazio aveva fatto un'operazione molto molto simile, mettendo insieme ottave e stornelli raccolte nell'area di Viterbo e appunto mettendoli insieme e pubblicandoli sul loro primo disco. E qui ci sono un po' di differenze rispetto, vabbè, chiaramente rispetto all'esecuzione che vi ho fatto io da casa mia, sotto il soppalco del letto precisiamo, ma cambia anche il fatto che ci sono più strumenti, sentite l'organetto, il mandolino, cambia la tonalità, quindi non potete eseguirla esattamente con gli stessi accordi di prima, ma la struttura è la stessa, qua non siamo in re ma siamo in si, e c'è una piccola differenza stilistica perché il Canzoniere del Lazio decide di cominciare un tono sotto, quindi comincia in La minore, poi sale al Si minore e in Si minore e Si maggiore si resta poi fino alla fine, mantenendo esattamente la stessa struttura poi degli stornelli che invece vi ho fatto sentire io. E, abbiamo detto, questi sono stornelli raccolti un po' più a nord, nel Viterbese, e adesso ve li facciamo sentire dal primo disco del Canzoniere del Lazio, Quando nascesti tu, 1973, Sono stato a lavorare. Sono stato a lavorare per coprir fosso. Un giorno o l'altro lo farò un fracasso. E se 50 lavorando non posso, me torna meglio conto de sta spasso. Ma chi magna la carne, chi l'osso? E allora adesso da cambiarlo il passo. Non è più tempo dei vecchi fascisti, in Italia siamo tutti comunisti. Ci alziamo la mattina, guardiamo intorno, perché noi non sappiamo dove andiamo. In cerca di lavoro è proibito, che non si trova manco a batte un chiodo. E mia moglie che mi sgrida dice addio che brutta vita, vita da cani, perché noi siamo tutti disoccupati, vita da cani, perché noi siamo tutti disoccupati. Cinque guerre ci ha dato re vittorio, più vent'anni di fascio obbligatorio. Non contento di tutto l'animale, cercava ancora un po' star Quirinale. Nel 19 dopo il conflitto immane, il popolo chiede re, lavoro e pane. Ma i reduci del Carso sul mantello gli risponde con olio e manganello. Prima che se cantava bandiera rossa, tutti se guadagnava qualche cosa. Adesso che se canta e giovinezza, ci fanno morire a tutti di debolezza. Finché gira questa roba la saccoccia è sempre vuota, con sto balluso ci fanno digiunare pezzo del muso. Con sto balluso ci fanno digiunare pezzo del muso. 100 anni fa, mannaggia, alla Valletta, i muratori andavano in carrozza, se lavorava come una saetta, tutti se guadagnavano la stozza. Ma adesso, poveracci, non se fanno fatto stracci, con questa vita sarebbe ora da farla finita. Con questa vita sarebbe ora da farla finita. Ed eccoci di nuovo qui alle canzoniere che vi presenta Folk. Oddio, abbiamo appena ascoltato Sono stato a lavorare, stornelli di Terbesi eseguiti dal canzoniere del Lazio, registrati nel 1973. E niente, bentornate a questo percorso di riscoperta che è anche un po' un tutorial radiofonico per riappropriarci di canzoni di lotta e di protesta. In generale, diciamo, per riprendere in mano tutto il patrimonio musicale che è fuori dal circuito commerciale dell'intrattenimento. Questa è musica che si fa come si può, con chi si può, quando si può, e che ci pareva bello anche ripresentare perché c'ha dei contenuti di lotta e politici simpatici e interessanti. Per contattarci ci potete scrivere a folk.oddio@canaglia.org. E niente, adesso un piccolo ripasso per chi ci volesse riprovare con la chitarra. Le ottave sono in tonalità minore e gli stornelli nella stessa tonalità però maggiore. Gli accordi che si alternano sono sempre prima e quinta, e prima, quarta, prima, quinta in chiusura. Quindi in questo caso, se lo facciamo in re, facciamo re, la, re, sol, re, la. Tutto maggiore negli stornelli, invece re minore e la maggiore nelle ottave se le accompagniamo. S'alziamo la mattina, guardiamo intorno, perché noi non sappiamo dove andiamo. In cerca di lavoro è proibito, che qui se trova manco a batte in chiodo. E mi moglie che mi sgrida, dice oddio che brutta vita, vita da cani, perché noi siamo tutti disoccupati, vita da cani, perché noi siamo tutti disoccupati. Questo è lo stornello e l'ottava nella relativa minore, e sempre nella stessa tonalità però in minore. 5 guerre ci ha dato re Vittorio, più 20 anni di fascio obbligatorio, e non contento di tutto l'animale, voleva pure imposta al Quirinale, e via dicendo. Questi sono sempre re minore, re minore, re minore, la maggiore. Sempre gli accordi sono sempre gli stessi per questa cosa. Adesso ho usato il testo degli stornelli viterbesi, però anche quelli fatti da Graziella Di Prospero, che vi siete sorbite nell'esecuzione mia, hanno esattamente la stessa cosa, no? S'alziamo la mattina, guardiamo intorno, alziamo la mattina, guardiamo intorno, ma poi la stessa cosa, che ne so. Vittorio Emanuele, che cosa vuoi? Tutta la gioventù mori la fai, perché tu per strano caso non sei ancora persuaso, e mi moglie che mi sgrida, dice oddio che brutta vita, pari pari, esattamente la stessa cosa in tonalità di vostro piacimento. Ed eccoci qua, infatti, in La maggiore, che è la tonalità di questo brano che vi facciamo sentire estemporaneamente, ma che il 18 aprile non può mancare, perché questo è proprio, vi ricordate, quel 18 aprile, che qua sentiamo cantato da Giovanna Daffini, che si esegue tranquillamente in La maggiore e Mi maggiore. Se tenete le chitarre in mano, lo potete tranquillamente seguire. Vi ricordate quel 18 aprile? Ricordate quel 18 aprile, d'aver votato democristiani, senza pensare all'indomani, a rovinare la gioventù, senza pensare all'indomani, a rovinare la gioventù. O care madri dell'Italia, e che ben presto vi pentirete, i vostri figli ancora vedrete abbandonare il loro casolare. I vostri figli ancora vedrete abbandonare il loro casolare. Ma cosa fa quel Mario Scelba? Compagni tutti, che ben uniti noi saremo, e tutti in coro noi canteremo, bandiera rossa trionferà. Abbiamo ascoltato Vi ricordate quel 18 aprile, cantata e suonata da Giovanna Daffini. E prima di finire di nuovo col 1948, una piccola nota sull'importanza di conoscere i canti politici ed ha a che fare invece con la Turchia, dove è morta a seguito di uno sciopero della fame Helin Bölek, cantante dei Gruppi Orum, un gruppo attivo da oltre 30 anni nella scena della musica di protesta turca, curda e non solo, e perseguitato dal regime turco in una miriade di maniere, tra cui la distruzione di strumenti e spartiti. Ecco, qui a Folco Dio un po' ci diciamo che se la conoscenza di questi canti diventa collettiva e molto diffusa, sarà più difficile per qualsiasi governo o polizia cancellarla semplicemente così. E niente, torniamo alle proteste invece del 1948, sempre con un canto raccolto da Graziella Di Prospero, che ha a che fare con gli scioperi dell'estate del 1948 a seguito dell'attentato a Togliatti. Tra il 14 e il 16 luglio gli scioperi furono revocati dalla CGIL, che con l'occasione si scisse in CGIL e CISL, dove la CISL avrebbe poi rappresentato appunto la componente democristiana, e a quei fatti sono legati questi stornelli raccolti appunto da Graziella Di Prospero, che stavolta per fortuna non dovete seguire nella mia esecuzione, ma in quella di un duo che ha elaborato e continuato appunto il lavoro di Graziella Di Prospero, i Canusia, che ha inciso questi stornelli anche nel suo primo disco, Fiore di Cardo, uscito nel 2015. E quindi adesso vi salutiamo, questo è Folk Oddio, ci potete contattare a folk.oddio@canaglie.org e vi lasciamo con quest'ultimo pezzo, cantato e suonato dai Canusia, dal primo album del 2015, Fiore di Cardo, gli stornelli anticlericali del 48. leggero e democratico sulla musica popolare. Molti di voi immagineranno che la musica popolare è quella musica fatta nel sud dell'Italia con tamburo e castagnette e a volte con cordofoni del tipo dei mandolini e delle chitarre a battente. La nostra esperienza di ricercatori sul campo ci ha portato a scoprire che nella nostra esistenza di 37 anni ad oggi compiuti non abbiamo mai visto nei quartieri popolari delle nostre città del mezzogiorno e altresì nelle campagne alcunché di umano che potesse mai prendere una tamburra in mano, per esempio a Montesanto, quartiere popolare di Napoli, e cantarci la bella tamburriatella tipo bella figliola cana, mia madonna, bella figliola cana. Questo non esiste più. Perché? Perché? Perché? Perché? Perché quella musica era legata a dei lavori con un ritmo antico, alla crescita del pappaficco, alla crescita della mulignanella. Il nonno mio piantava il pomodoro e aspettava paziente per 2 mesi che uscisse. Mestiere duro quello del personale capone contadino, ma mestiere ecologicamente sano. Ma poi un giorno vennero e dissero a quel mestiere senza pressa che ci voleva un po' di pressa. E allora presero questa gente dalle campagne, li portarono in una fabbrica grigia con le ciminiere e con il lot a noi, il lot a noi. Li presero, li schiattarono davanti a una macchina che faceva un sacco di burdella. Boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom. E allora? Come gli è cambiata la vita a questa gente, cambiò anche la musica. E oggigiorno un operaio di 20 anni che fa quando torna a casa, che si mette in disco di Daniele Seppe con la musica popolare, che si legge il libro di Cesare Pavese, che si vede il filmino di Nanni Moretti. No! L'operaio sta esaurito e allora si mette sopra il cavalcavia quando sta proprio esaurito e butta la vita da sopra giù. Dentro la sua Uno bianca, dentro la sua Opel Corsa, dentro la 127 si è proprio sfigato, si schianta lo stereo a 2000 e via con la musica e va verso la discoteca. scesi dalle montagne per ammazzare passa. Ammazzare passa. Ammazzare passa. Ammazzare passa. Ai comunisti non ha paura, difenderanno la libertà. Ma i comunisti non ha paura, difenderanno la libertà. Pensare all'indomani, a rovinare la gioventù, senza pensare a rovinare la gioventù, rovinare la gioventù, la gioventù.